A tutti quelli che leggeranno, noi, Pierre Couchon, per misericordia divina, vescovo di Beauvoise, e frate Jean Lemestre, dell'ordine dei frati predicatori, delegato da frate Jean Gravarin, inquisitore della fede, della perversità eretica nel regno di Francia, in nome di nostro Signore Gesù Cristo, salute! Piacque alla divina provvidenza che una donna, Giovanna, detta la Pulzella, sia stata catturata da valorosi uomini d'arme dentro i confini della nostra diocesi e della nostra giurisdizione. In molti luoghi si era diffusa la voce che quella donna, trascurando la dignità conveniente al suo sesso, priva di vergogna e di pudore femminile, indossava, dimostrando una mostruosa depravazione, abiti non femminili, ma adatti agli uomini. Con questa premessa ha inizio il processo a Giovanna d'Arco, giovane contadina della Lorena. La guerra dei 100 anni aveva messo a dura prova la Francia. La stessa Giovanna, all'età di 13, aveva assistito al saccheggio del suo villaggio. A quella stessa età aveva già iniziato ad udire alcune voci che le sussurravano continuamente questo messaggio: «Non temere! Sii buona! Vai in Francia! Giovanna, parla con il Delfino e libera la città di Orléans dall'assedio degli inglesi!» Qualche anno dopo, Giovanna riesce ad incontrare Carlo VII, il Delfino, chiedendogli sostegno per portare avanti la sua missione: liberare la Francia dagli inglesi. Fu così che a capo dell'esercito francese prese parte alle gloriose battaglie di Orléans e Reims, dove nella splendida cattedrale poté poi, come da tradizione, essere incoronato Carlo VII. Subito dopo, però, Giovanna fu catturata dai borgognoni, che a loro volta la consegnarono agli inglesi e rinchiusa nelle carceri comuni di Rouen. Il re di Francia non fece alcun passo per ottenere il rilascio di Giovanna. Nel processo che seguì, il fatto che indossasse abiti maschili venne utilizzato dal vescovo Couchon per screditare la sua immagine, in quanto considerato un comportamento immorale, indecente e addirittura abominevole. Inoltre il vescovo tentò di farle ammettere che le voci e le apparizioni non fossero di natura divina, ma opera del maligno, e che Giovanna fosse stata spinta ad adorare le streghe. Fu così che il 30 maggio del 1431, a soli 19 anni, Giovanna d'Arco venne bruciata a rogo nella piazza del mercato di Rouen. L'accusa di stregoneria non lasciava scampo. Per la Chiesa divenne fondamentale punire, incarcerare e correggere le persone resesi colpevoli di stregoneria. Nel 1487 si arrivò addirittura alla stesura di un vero e proprio manuale investigativo, il Malleus Maleficarum, il martello delle streghe. Il manuale era pieno di precise indicazioni su come riconoscere una strega, dalla sua capacità di leggere nel pensiero, di predire il futuro, dalla conoscenza di lingue arcaiche mai imparate, dalla presenza del signum diabolicum, il marchio di Satana, ossia una parte del corpo insensibile al dolore. Ovviamente, per trovarla, l'inquisitore doveva torturare tutto il corpo della donna. Rileggendolo oggi, si resta perplessi su quanta superstizione, misoginia e perversione sia contenuta nelle pagine di quel libro, e che uomini di chiesa abbiano potuto legittimarne l'uso fino a portare alla condanna di un numero talmente elevato di presunte streghe da causare un vero e proprio massacro di donne.